Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Boxcar Berta di Berta Thompson, capitolo 15. Una domenica sera, il giorno prima di essere dimessa, me ne stavo alla finestra del dormitorio e guardavo il sole al tramonto dietro le ciminiere delle fabbriche. Mi sentivo bene. Ero ingrassata di 4 chili. Ripensai alle cose del passato e mi vennero in mente le parole di Kipling. «Dio, c'è forse qualcosa che non ho fatto?» Guardai l'edificio dell'ospedale e mi parve di scorgere la grande bandiera che sventolava sul tetto. Avrei voluto iscrivervi il motto della mamma. In questa famiglia non si fanno tragedie. «Sto per vivere la mia grande esperienza», pensai. Sto per avere un bambino, un figlio. E chi sarà il padre? Con quanti uomini diversi ero stata al Globe? Ci avevo lavorato 2 mesi, per 25 giorni al mese, tenendo una media di 30 uomini al giorno, in totale 1500 uomini. Poteva essere uno qualsiasi di quei 1500 uomini. L'indomani, quando lasciai l'ospedale, non presi né la strada né un treno merci. Nelle ultime settimane al Globe, dopo che avevo rotto con Bill, 2 delle ragazze mi avevano insegnato un sistema sicuro per grattare ed ero riuscita a metter via dai 5 ai 10 dollari al giorno. Avevo un malloppo di oltre 300 dollari in una cassetta di sicurezza. Così potei rifarmi la facciata. Comprai un bell'abito da viaggio nero e un cappello in tinta. Poi acquistai un biglietto della Northern Pacific Limited per Seattle. Presi posto nella carrozza Pullman e mi misi comoda, decisa a non attaccare discorso con nessuno e a riflettere sul mio nuovo problema. Pensare a un figlio era strano, ma piacevole. Rammentai a me stessa che avevo sempre desiderato un bambino. Poi mi corressi, per essere più esatta, avevo sempre dato per scontato che avrei avuto figli. Pensai ai miei genitori. Certo, la mamma era sempre stata naturalmente portata a fare la madre e mio padre mi aveva detto che si sentiva maschio, non padre. Che cosa volevo in realtà? Probabilmente mi interessava soltanto l'esperienza della maternità. Per quella provavo una certa curiosità. Il mio corpo, inguainato nell'elegante abito da viaggio, mi dava una sensazione piacevole. Il mondo che mi sfrecciava davanti tra i pali del telefono era verde e fresco. La terra era una buona terra. Osservai soddisfatta le persone che avevo intorno. Il treno era affollato. Quella notte la cuccetta superiore dello scompartimento fu occupata da un uomo di 50 o 60 anni. Non era il tipo di uomo a cui ero avvezza. I suoi capelli rossicci si stavano diradando e striando di grigio. Aveva una barba a punta, anch'essa brizzolata. Portava gli occhiali. Durante il resto del viaggio, di giorno, sedette di fronte a me, con le lunghe gambe accavallate. Il suo bagaglio era costituito da una valigetta porta documenti e da una macchina per scrivere portatile. Mi rivolse la parola diverse volte e mi offrì sigarette, ma io non attaccai discorso, anche se avrei voluto. Mi ero imposta di pianificare il mio futuro con il bambino. A un certo punto, quando si alzò, lessi il suo nome sulla valigetta. Si chiamava Harry Fredericks. Aveva lasciato sul sedile i documenti che stava leggendo e annotando a matita. I titoli erano «Rapporto sui suicidi» e «Rapporto sul cancro». La qualifica «consulente statistico» attirò la mia attenzione. Mi domandai quale ne fosse il significato. L'indomani a mezzogiorno la curiosità ebbe la meglio e proposi al mio compagno di viaggio di pranzare insieme. Accettò volentieri. Scoprii che era un pozzo di scienza. Franklin Jordan era una persona informata. A me era sembrato un vero intellettuale. Mio padre era un filosofo, un pensatore, e avevo conosciuto molte persone colte e erudite, ma quell'uomo sapeva tutto, era un'enciclopedia vivente. Qualunque opinione esprimessi, sapeva correggermi o citare qualche elemento che mi dava ragione, e ogni volta suffragava le sue affermazioni con dati precisi. In quei due brevi giorni mi dischiuse l'orizzonte di una nuova poesia, la poesia delle cifre. Conosceva i tassi di mortalità e di natalità e sapeva quanto erano i negri americani, distinti per sesso e per età. Sapeva quanti casi di omicidio, di stupro, di suicidio, di cancro si erano verificati per ogni 100.000 abitanti. Mi dimostrò che tutto può essere ridotto a matematica e mi spiegò come si può fare una stima del numero di persone che passeranno all'incrocio tra la 42esima strada e Broadway a una data ora, oppure come si può prevedere quante persone moriranno in un anno e indicare le cause probabili di morte. Tra l'altro mi disse che quell'anno nella città di Chicago i figli illegittimi erano stati 129 ogni 1000 nati, di cui 79,7 negri. Le cifre che citava ci suggerirono molti interessanti argomenti di discussione. Infatti, il mio interlocutore fondava sempre i suoi discorsi su dati numerici, ma aveva anche una vastissima cultura scientifica e sapeva cose che non si trovano sui libri e non si sentono alle conferenze. Tenne a precisare che molte delle sue affermazioni erano soltanto opinioni personali, ma mi parvero talmente logiche che le annotai nella memoria e le ricordo ancora. Disse ad esempio che è difficile trovare prostitute con un rapporto peso-altezza normale. Salvo rare eccezioni, sono tutte troppo grasse o troppo magre. Probabilmente le più ricercate sono le grasse, ipotizzò, confermando ciò che sapevo. La ragione è da ricercarsi nel fatto che molti uomini hanno ancora bisogno di una figura materna e cercano una soddisfazione fisica simile a quella che provavano da bambini. Le prostitute sovrappeso sono spesso affette da disfunzioni ghiandolari che attenuano la loro sensibilità emotiva e consentono loro di dedicarsi a quell'attività senza provarne disgusto. Per lo più mi ricordò: le prostitute sono magre. A ridurle così sono soprattutto le malattie venere. Probabilmente influisce anche l'alcolismo, un vizio che la professione induce facilmente. Infine c'è un terzo motivo, al quale non avevo mai pensato, forse proprio a causa della mia costituzione robusta. Il mestiere della prostituta è estremamente faticoso, comporta un notevole dispendio di energie e infatti non è raro che le puttane contraggano malattie come la tubercolosi, della quale un fisico debilitato è facile preda. Naturalmente con il signor Frederick non feci parola delle mie esperienze al Globe. Egli era convinto che il mio interesse per i suoi discorsi fosse puramente scientifico. Quando affrontò il problema del rapporto tra prostituzione e gravidanza, da un lato mi divertì, dall'altro lo ascoltai con grande attenzione. Le statistiche, disse, dimostrano che le prostitute rimangono incinte assai di rado e sempre nei primi mesi di attività. Ciò per un motivo molto semplice, che sintetizzò così: su un sentiero troppo battuto non cresce l'erba. Mi spiegò che le ovaie, a contatto con sperma sempre diverso, dopo un po' non reagivano più. Inoltre, le continue irrigazioni vaginali con liquidi fortemente antisettici praticate da molte prostitute portavano quasi sempre alla sterilità. Mi disse anche di aver appena compilato per conto di un medico di Chicago quello che egli stesso definiva una statistica presunta sulle prostitute e sulle donne di malaffare di quella città e sul numero di protettori che esse impiegavano. Mostrai un tale interesse per quello studio che egli mi prestò la sua macchina per scrivere portatile, consentendomi di fare una copia delle tabelle. E tali e quali le riporto qui, con me stessa inclusa, immagino. Classificazione delle prostitute, delle donne di malaffare e del numero dei loro protettori. Prostitute minorenni. Presenze a Chicago, stima, 1000. Numero contatti settimanali a testa, stima, 2. Totale contatti settimanali, 2000. Numero protettori, 100. Prostitute potenziali, 10.000. Numero contatti settimanali a testa, stima, 2. Totale contatti settimanali, 20.000. Numero protettori, 5.000. Dilettanti. Presenze a Chicago, stima, 10.000. Numero contatti settimanali a testa, stima, 3. Totale contatti settimanali, 30.000. Numero protettori, 6.000. Professioniste di primo pelo. Presenze a Chicago, stima, 1.000. Numero contatti settimanali a testa, 50. Totale contatti settimanali, 50.000. Numero protettori 700. Veterane. Presenze a Chicago, stima 800. Numero contatti settimanali a testa, stima 75. Totale contatti settimanali 50.000. Totale contatti settimanali 60.000. Totale protettori 700. Passeggiatrici. Presenze a Chicago, stima 5.000. Numero contatti settimanali a testa, stima 30. Totale contatti settimanali 150.000. Numero protettori 4.000. Battone. Presenze a Chicago, stima 1.000. Numero contatti settimanali a testa, 5. Totale contatti settimanali 5.000. Numero protettori 400. Puttane d'alto bordo. Presenze a Chicago, stima 10.000. Numero contatti settimanali a testa, stima 5. Totale contatti settimanali 50.000. Numero protettori 5.000. Mantenute. Presenze a Chicago, stima 10.000. Numero contatti settimanali a testa, stima 2. Totale contatti settimanali 20.000. Numero protettori 3.000. Donne maritate di facili costumi. Presenze a Chicago, stima 50.000. Numero contatti settimanali a testa, stima 1. Totale contatti settimanali 50.000. Numero protettori 500. Ragazze squillo. Presenze a Chicago, stima 1.000. Numero contatti a testa, stima 6. Totale contatti settimanali 6.000. Numero protettori 500. Totale. Presenze a Chicago, stima 99.800. Totale contatti settimanali 443.000. Numero protettori 25.900. Da questo studio si deduce che per soddisfare le esigenze sessuali di 500.000 uomini occorrono circa 100.000 donne. È interessante notare che ogni protettore sfrutta da una a cinque donne. Poco prima di arrivare a Seattle, il signor Frederick prese nota del mio indirizzo, quello di mia madre, e disse che mi avrebbe mandato una documentazione oltre a fare inserire il mio nominativo negli indirizzari dell'Ufficio Censimento degli Stati Uniti e del Dipartimento del Lavoro. Per questo gli serbo eterna gratitudine. Grazie a lui, infatti, quando sento qualcosa che mi incuriosisce in un discorso, so come consultare i dati per verificare se l'affermazione è corretta o meno. E grazie all'esperienza del Globe leggerò sempre con particolare interesse le statistiche riguardanti la prostituzione. La mamma venne a prendermi con A e O e mi portò in Washington Street. Aveva lasciato la sua casa e abitava con un'amica, Bessie Levin, in una magnifica stanza piena di sole. La mamma non era cambiata affatto. Forse aveva qualche capello grigio in più e si era un po' appesantita. Ma si interessava sempre con calore alle persone e alle idee e sapeva quando non era il caso di fare troppe domande. A.E.O. mi osservava attentamente, credo anche con desiderio. Fui contenta di essere in piena forma, di avere un bel corpo, ma non gli diedi alcun motivo di credere che potesse toccarmi. Lui e la mamma sembravano più vicini che mai, come se vi fosse tra loro una sorta di intima intesa. Non avrei mai voluto rovinarla. Inoltre avevo ben altro a cui pensare. Dissi loro del bambino, mi parvero contenti, non mi chiesero come fossi rimasta incinta, tuttavia non esitarono a comunicare la notizia a tutti gli amici. Ma era destino che non dovessi rimanere a lungo. Una lettera da Chicago mi fece riprendere la via dell'est e tornai nella città che avevo appena lasciato. Libri ribelli. Libri ribelli.